A bordo campo di Dario Ricci. Io solo sono un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna. Gli appelli, l'arrivismo, all'amo non abbocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. 29 anni, triestina, campionessa della nostra scherma e aspirante giornalista. Schietta, sincera, poco inclina ai compromessi, per lei si è scomodato persino un ex presidente della Repubblica. Pronto? Pronto Margherita, eccoci qua. Sono una palestra di scherma, questo è un po' di casino, mi sa. Non a caso il programma si chiama A Bordo Campo, direi che siamo... Ok, siamo in tema. Allora, Margherita Granbassi, è passato qualche mese da Pechino, bottino importante, due bronzi, a qualche mese di distanza, che effetto fanno quelle medaglie, Margherita? Beh, fanno sempre un bel effetto, penso non soltanto a pochi mesi di distanza, ma probabilmente per tutta la vita. Sono state le mie prime medaglie olimpiche, mi mancava, in questi ultimi anni ho fatto degli ottimi risultati e tenevo tantissimo a riuscire a salire sul podio anche alle Olimpiadi. È stato però un post Olimpiadi piuttosto turbolento per la scherma azzurra, a dir poco. Un po' di voi si sono sparpagliati per reality TV, tu hai intrapreso la carriera giornalistica e poi ci sono state anche dei cambiamenti tecnici notevoli. Il tecnico del Fioretto, Andrea Magro, non è stato rinnovato il rapporto con questo allenatore che tanto ci aveva fatto vincere. Cosa pensi di questo cambio della guardia in panchina? Beh, guarda, ovviamente sono rimasta molto molto male inizialmente, soprattutto perché Andrea è stato, diciamo, un mio maestro per tantissimi anni. Io dai 9 ai 21 anni ho lavorato con lui, per cui ovviamente l'ho presa abbastanza male, soprattutto dal punto di vista umano, oltre che ovviamente avevo la consapevolezza che comunque era una persona tecnicamente molto molto preparata e i risultati l'hanno dimostrato. Adesso comunque bisogna andare avanti e quindi io non posso che fare l'in bocca al lupo per il nuovo settore tecnico sicuramente, e ovviamente auguro ad Andrea tantissime altre soddisfazioni, magari anche in un altro campo, perché così potrà dimostrare a se stesso e agli altri il suo grandissimo valore. Tantissimi successi, però rimane qualche macchia nel palmarès della nostra scherma per quanto riguarda proprio il fioretto femminile a squadre, no? Anche Pechino, bronzo importante, ma è sembrata a molti una medaglia d'oro sfumata più che un bronzo vinto, perché eravate le favorite d'obbligo. Spiegami, è così difficile poi ricompattare nelle dinamiche della squadra quelle che sono le rivalità, le tensioni che si liberano nella competizione individuale quando siete una contro l'altra? Evidentemente è molto difficile. Comunque in questi anni, l'ultimo campionato del mondo l'avevamo vinto nel 2004, in questi anni abbiamo fatto un po' di fatica, ci sono stati un po' dei cambiamenti con la squadra nel momento in cui Giovanna e Valentina erano in maternità, quindi poi sono rientrate, quindi probabilmente non siamo riuscite ancora a trovare il giusto mix per far esplodere al meglio la nostra forza. È indubbio che individualmente siamo le più forti, perché comunque siamo arrivate prima, seconda e terza alle ultime edizioni dei campionati del mondo. Probabilmente dobbiamo ancora trovare la marcia giusta e il giusto giro proprio tra di noi. Per te, Margherita, si è scomodato addirittura un ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, che è sceso in campo apertamente contestando il fatto che tu potessi partecipare ad anno zero mantenendo, diciamo, il tuo posto nell'arma dei carabinieri. Ti aspettavi un intervento così deciso sulla questione? Beh, certo, non l'ho presa molto bene, anche perché i suoi appunti erano basati su delle cose abbastanza inesistenti, perché criticava il fatto che io fossi doppiamente retribuita e probabilmente non sapeva che prima di dare l'ok alla partecipazione di anno zero avevo deciso di andarci a titolo gratuito proprio per fare tutto secondo il regolamento. Poi evidentemente forse non aveva nemmeno visto la puntata, perché ha parlato di un abbigliamento indecoroso e di un atteggiamento da velina, per cui probabilmente non era stato attentissimo durante la puntata, magari non l'aveva vista, tant'è che comunque poi si è ricreduto, comunque mi ha chiesto scusa, tant'è che aveva anche così avallato la mia ipotesi di prendere l'aspettativa, che poi purtroppo i carabinieri non hanno accettato, e questa cosa non l'ho ancora capita, diciamo. Però io sono tendenzialmente una persona che non porta nessun rancore, è passato tutto, è andato bene, rimango legata in maniera affettiva veramente tanto all'arma dei carabinieri. Intanto però Valentina Vezzali è in televisione, partecipa a un reality, Ballando con le Stelle. mille, si diverte, insomma, confessacelo, non è che ogni tanto hai pensato ma chi me l'ha fatto fare, quasi quasi potevo farmi anch'io il mio bel reality. Ma no, in realtà io sono assolutamente molto soddisfatta e sono davvero contenta che altri atleti possano fare quello che desiderano senza passare quello che ho passato io, per cui sono proprio contenta che i miei colleghi abbiano davvero potuto partecipare tranquillamente senza nessun problema alle trasmissioni alle quali volevano partecipare. Ma credi che si fosse trattata di un'altra trasmissione, non anno zero, si sarebbe scatenato questo polverone? Beh, io no, questo assolutamente non lo so, di sicuro non pensavo che si scatenasse il polverone che si è scatenato e mi sono trovata in un turbine così un po' più grande di me probabilmente, questo non lo so, è vero che comunque i carabinieri, diciamo, da questo punto di vista sono un po' severotti, dai. Direi di sì. Senti, domanda inevitabile, facciamo per un attimo il gioco della torre, al fin della fiera tra avversari dentro e fuori dalla pedana, chi butterebbe giù, Valentina Vezzali o Francesco Cossiga? Oddio, butterei giù Cossiga, dai. Ovviamente, insomma, ha fatto tantissimi anni, insomma, Valentina da regalarci ancora tante emozioni in pedana e fuori, per cui è giusto che abbia la possibilità di farlo, niente torre. Anche perché poi Valentina già l'ha battuta in pedana, quindi c'è la possibilità di fare il bis. Senti, insomma, scelta coraggiosa la trasmissione di anno zero Santoro. Ti senti valorizzata a dovere in questo ruolo di rappresentante dei giovani in qualche modo? Noi abbiamo la fortuna di avere uno spazio, diciamo, noi giovani, uno spazio dedicato all'interno di una trasmissione importante, e già questo non è cosa da poco. Credo che comunque così la possibilità che ho sia incredibile, e ho la possibilità di vedere come nasce un programma, come lavora una redazione, e questa è una cosa per me veramente molto molto interessante, molto diversa da quello che ho sempre fatto nella mia vita, molto stimolante, e poi in trasmissione credo che sia bello poter dare voce anche a dei ragazzi giovani. Infatti un pochino, diciamo, nella puntata quella delle polemiche, no? Quella del famoso addio dell'annunziata, c'è stata una frase che la signora annunziata aveva pronunciato e mi aveva fatto restare male quando parlavano due ragazze giovani, una era una ospite, diciamo, dei miei, e l'altra invece era in collegamento da Milano. Hanno cominciato ad affrontare un po' in maniera colorita una discussione sull'argomento e la signora annunziata ha detto: ma non si può affidare a due ragazzine così un discorso così complesso. Io in realtà, ecco, sono rimasta un po' male da questa frase, perché comunque erano due ragazze abbastanza mature e soprattutto sufficientemente coinvolte per poter dire la loro. Qualche detrattore dice: va bene l'aspirazione a fare il giornalismo, però perché cominciare dal tetto, cioè da una delle trasmissioni più esposte anche politicamente? Insomma, no, questa gran bassi la fa o no la gavetta? Beh, questo io è un po' una critica che capisco, però del resto se mi è stata data questa opportunità e se ho la fortuna di fare una gavetta di altissimo livello, cosa devo farci? Del resto ho avuto una grandissima fortuna, l'importante è rendersene conto, credo, e cercare di affrontare comunque qualsiasi situazione con grande umiltà. Ecco, io non mi definisco una giornalista, magari mi piacerebbe, ma di sicuro ho la possibilità di fare esercizio in una palestra di altissimo livello. Come eredità olimpica, torniamo a Pechino, direi che oltre le medaglie un posto particolare credo lo abbia nel tuo cuore l'incontro con il Dalai Lama, no? Sei stata una delle atlete italiane più decise nello sposare la causa del Tibet. Che incontro è stato questo col Dalai Lama e che effetti ha avuto su di te? Ma credo l'incontro più emozionante della mia vita, ci tenevo tanto, l'avevo detto, non volevo che le mie parole fossero soltanto campate per aria e ho fatto di tutto perché ciò avvenisse, quindi l'importante è che comunque questo argomento non si abbandoni, perché il tema dei diritti umani penso sia importantissimo, come lo sono ovviamente tanti altri, e così mi piace l'idea di essere riuscita ad incontrare il Dalai Lama, perché era un grandissimo desiderio che avevo, pur avendo sposato la situazione soltanto prima delle Olimpiadi, perché ammetto che ne sapevo davvero poco, però prima dei giochi olimpici si è cominciato a parlare, a polemizzare sul fatto che appunto i giochi si svolgessero proprio in Cina, quindi io così ho preso un po' a cuore questo argomento e mi sono affezionata, devo dire, moltissimo alla figura del Dalai Lama. Che adesso è nella sua stanza, immaginiamocela, la la tua maschera, no? Sì, chissà cosa ci farà, magari se la mette addosso ogni tanto. No, vabbè, questo sì, c'è la mia maschera, gliel'ho consegnata a Praga, così era un po' un simbolo, no? Io avevo pensato alla maschera proprio perché è un qualcosa che protegge noi schermidori e così simbolicamente l'idea era quella che lui potesse proteggere allo stesso modo il suo popolo. Sotto questo profilo è stata un'occasione persa questa Olimpiade, pochi atleti hanno apertamente sposato la causa tibetana e pochi atleti forse hanno avuto il coraggio di manifestare quello che poi in fondo credevano o pensavano sul tema diritti umani. Sinceramente quando inizialmente ci dicevano di boicottare i giochi io ho pensato certo se servisse a qualcosa lo rinuncerei volentieri al mio grande sogno pur di aiutare qualcuno. Ripensandoci credo che comunque non sarebbe stato giusto, era giusto andare lì, cercare di combattere come meglio si poteva e cercare di dare al mondo l'immagine positiva che lo sport ha. Senti, però alla fine si dice sempre che la politica non invada il campo dello sport, che lo sport la politica invade tutti i campi, purtroppo anche quello dello sport. Sarebbe più bello se fossimo liberi anche da questo, ma non è così, insomma. Margherita, il tuo futuro ancora in pedana oppure dobbiamo già immaginarti dietro una scrivania alle prese con il servizio, il reportage di giornata? Beh, ancora pedana, ancora pedana sicuramente, tengo molto ad arrivare alle Olimpiadi di Londra, cercherò di mettercela tutta, di lavorare affinché io possa arrivare a Londra in buone condizioni. Ti saluto con una domanda d'obbligo perché me la chiedono gli ascoltatori, dopo Pechino c'è ancora spazio nel tuo cuore, sei fidanzata? Perché no. Qui lo sai che qua i pretendenti non mancano, insomma dacci una speranza. No, sono molto riservata, mica dico per radio queste cose. Ma dacci una speranza, dai. La speranza non muore mai per nessuno. Per sempre tu, per sempre tu, per sempre tu. E allora grazie a Margherita Granbassi per la sua simpatia e la sua sincerità. A bordo campo. Il 9 aprile, vigilia del plebiscito nazionale, veniva proclamato il giorno del grande Reich tedesco. Allora le campane delle chiese suonavano a festa, muggivano le sirene delle fabbriche, mentre il traffico si fermava per 2 minuti per segnare il solenne momento. La partita Italia-Austria accende negli azzurri anche una volontà di resurrezione. Entrano le squadre in campo, l'attesa è vivissima. Lo chiamavano Cartavelina, Matthias Sindelar, per la leggerezza delle sue finte e del suo dribbling ubriacante. O il Mozart del pallone, visto che proprio lui era il centravanti della grande nazionale austriaca degli anni 30, il Wunder Team, la squadra delle meraviglie, cancellata dall'annessione dell'Austria alla Germania nazista nell'aprile del 1938. Antonio Ghirelli, decano dei giornalisti sportivi italiani, lo ricorda così. In apparenza era molto fragile, in realtà era un uomo dal dribbling diabolico, da un'intelligenza di gioco straordinario. E bisogna ricordare che in quel periodo, siamo negli anni 30, in quel periodo la scuola austriaca, la scuola danubiana anzi come si chiamava, cioè con un'influenza anche dell'Ungheria, faceva agio su tutte le altre scuole, soltanto gli inglesi, ma in una sorta di isolamento, resistevano al primato. Il gioco danubiano era un gioco d'attacco, era un gioco di dribbling, era un gioco di grande intelligenza. E la nazionale austriaca, che praticamente fu quella che, con la quale ci misurammo sia nelle prime partite della Coppa Internazionale e sia nel primo campionato del mondo, aveva come condottiero Sindelar. Nello Governato, ex calciatore e dirigente sportivo, che alla parabola di Matthias Sindelar ha dedicato un romanzo, La partita dell'addio. Sindelar è stato un grande calciatore, forse il più grande calciatore di prima della guerra, alla pari con il nostro Meazza, ecco, erano considerati questi due giocatori, diciamo, di tecnica straordinaria. i due migliori esponenti di quel periodo, degli anni 30, insomma, e lui come calciatore naturalmente ha espresso il massimo nella nazionale austriaca, diventando la più forte squadra d'Europa insieme alla nostra, insieme all'Italia, quindi era sempre una lotta tra queste due squadre e tra queste due scuole soprattutto. I grandi incontri internazionali di calcio. Italia-Austria, alla presenza animatrice del Duce, di Sua Altezza Reale la Principessa Maria di Savoia, del capo degli sportivi austriaci, Principe Starenberg. Italia e Austria, gli azzurri di Vittorio Pozzo contro il Wunder Team di Ugo Meisl. Proprio l'Italia è l'ostacolo insormontabile per gli austriaci nella Coppa del Mondo del 1934, organizzata dal nostro paese che il regime fascista vuole mettere a tutti i costi nella propria bacheca. Nella semifinale di San Siro il 3 giugno hanno la meglio gli azzurri, 1-0 grazie al gol di Guaita, ma a fare la differenza è anche la guardia spietata del nostro Monzeglio su Sindelar, messo KO dai tacchetti dell'azzurro, come ricorda Governato. È stato il primo giocatore a subire l'intervento di menisco e a rigiocare, perché allora facevi un menisco e non giocavi più. Mentre lui recuperò, e però ecco, giocava sempre con una fascia elastica sul ginocchio, quindi ebbe questa rudezza, andò in clinica a Milano e praticamente anche in quella partita fu una partita molto discussa, l'arbitraggio di un arbitro svedese, quindi l'Italia vinse poi alla fine, ma parlarono di una partita ecco, abbastanza contestata da parte degli austriaci che poi non si erano neanche potuti preparare al meglio. Infortuni, gol, finte, destini che si incrociano. Sindelar segue la fine della Coppa del Mondo dal letto di una clinica di Milano. L'Austria finisce quarta, l'Italia in finale supera per 2-1 la Cecoslovacchia a Roma, sotto gli occhi del Duce. Una coppa che cambierà anche il destino di Monzeglio. Ancora Antonio Ghirelli. Eraldo era un casalese e che giocava al Bologna e che poi il Partito Nazionale Fascista, su preghiera dei figli di Mussolini, fece venire a Roma, alla Roma. Monzeglio era un giocatore molto molto duro, molto e Cartavelli rimase duramente ferito. Ma l'aneddoto su Monzeglio è piuttosto bello, perché Monzeglio era allenatore di tennis di Mussolini, amico dei figli del Duce, che appunto lo avevano fatto venire a Roma, a Villa Torlonia, quando Mussolini era libero la mattina, la domenica, eccetera, lo allenava Eraldo Monzeglio. Quando finì il fascismo ed Eraldo scampò alla morte per mano dei partigiani, semplicemente perché era stato campionato del mondo, questo per dire che cosa era anche allora la passione del calcio, anche nel momento della guerra civile, a Sesto San Giovanni, che era un comune completamente rosso, Eraldo fu salvato. Eraldo poi, quando ci fu proclamata la Repubblica di Salò, lavorò con Mussolini come valletto, come cameriere di Mussolini a Villa Feltrinelli. Quando io e Maurizio Barenz diventammo giornalisti sportivi nel dopoguerra e Monzeglio venne a Napoli ad allenare il Napoli, noi lo pregammo di farci leggere queste sue memorie, di scriverle, di leggerle insieme, di scriverle insieme, sarebbe stato un best seller. E devo dire che questo rude casalese ebbe il sentimentalismo ammirevole di non voler tradire la fiducia della famiglia Mussolini per guadagnarci. E quindi noi dovremmo rinunciare a questo libro. Ma quel ginocchio malandato e la degenza a Milano segneranno anche il destino di Sindelar, che proprio in questo periodo conosce Camilla Castagnola, una giovane ragazza italiana che insegna letteratura tedesca. Nello Governato. Unì il suo destino poi a questa donna italiana, a questa donna ebrea italiana, e che lo accompagnò naturalmente fino all'ultimo suo giorno. In lui c'erano già queste idee, questi fermenti che poi lo portarono in netto contrasto, in netta opposizione al regime nazista. Camilla naturalmente probabilmente rafforzò questa parte di Sindelar, quindi fu un incontro con questa italiana, con questa ebrea italiana, che direi quasi che fu decisivo per la sua vita. Ecco. Mattias porta Camilla a Vienna, ma ormai non è più tempo di gol, scudetti e pallone. Altre più drammatiche sfide sono alle porte. Immensa esultanza popolare a Vienna per il trionfale arrivo del Führer che suggella la realizzazione dell'Anschluss. Wien erwartet den Führer. È il 10 aprile 1938 quando l'Austria è annessa al Terzo Reich tedesco. La strada di Mattias e Camilla è segnata. Lei è ebrea, lui il suo destino l'ha scelto su un campo di calcio, come sempre. Appena 7 giorni prima, al Prater, Germania e Austria si sono affrontate nella partita dell'unificazione delle due nazionali. E Sindelar non solo ha segnato, negando la vittoria ai tedeschi, ma non ha voluto fare il saluto nazista verso i gerarchi di Hitler seduti in tribuna. Era di idee diverse, era cresciuto in un ambiente, diciamo così, di lavoratori, l'aveva lavorato da giovane anche lui, era completamente all'opposto del nazismo e dei nazisti austriaci. Certamente lo dimostrò poi in tutte le maniere che poté, ecco, dimostrò sia giocando in quell'ultima partita in cui la nazionale austriaca fu l'ultima partita che disputò contro la Germania a Vienna, in cui lui non fece il saluto nazista a tutte le autorità presenti, non volle partecipare al mondiale del 38 che si svolgeva qualche mese dopo, non volle partecipare con la squadra, diciamo con la squadra tedesca che aveva praticamente inglobato la squadra austriaca. Erberger, il tecnico della nazionale tedesca, andò a parlargli, lo voleva in nazionale con lui a Parigi e lui disse di no, quindi dimostrò ampiamente di essere contro, ecco, e pagò poi per questo. La Coppa del Mondo in Francia nel 1938 doveva essere il trionfo della Germania nazista, ma i tedeschi vengono eliminati a sorpresa dalla Svizzera. E allora l'Italia di Pozzo fa il bis, battendo 4-2 in finale l'Ungheria. La squadra italiana è per la seconda volta campione del mondo. Meazza, capitano del nostro 11, sale in tribuna d'onore per ricevere dal presidente Lebrun l'ambitissima Coppa d'Oro. Quanti sono 4 anni in una vita? Quel giorno a Parigi è già nell'aria la guerra ormai vicina. Monziglio non è più titolare, Sindelar seduto in tribuna, dove i tanti antifascisti presenti lo eleggono loro beniamino. Lui va a vedere questa partita in cui viene riconosciuto e viene, diciamo, identificato come un uomo che lotta contro la dittatura, ecco, quindi i francesi gli rendono un omaggio, ecco. Mattias torna a Vienna dall'amata Camilla. Il sogno è provare ancora a calciare in porta un pallone, ma il cerchio intorno al campione e al suo amore si chiude il 23 gennaio 1939. Il calcio in Austria è un calcio ormai regionale, un calcio, diciamo così, ben lontano da quello che era qualche tempo prima, quindi Sindelar si adatta a giocare qualche partita, gioca un campionato regionale che poi erano divisi tra la Germania e l'Austria in vari gironi, ecco, diciamo, e quindi lui vince con la sua squadra questo girone e poi va a fare quest'ultima partita a Berlino, si disputa la finale del campionato praticamente, gioca questa partita, pareggiano 2-2. E quando torna a Vienna, un mese dopo, diciamo così, accade questa situazione in cui lui e Camilla vengono trovati morti nel loro appartamento, nell'appartamento di Sindelar, e le SS in un'ora praticamente li cremano. Non resta niente, non restano documenti, non resta niente, la stufa sparisce tutto, ecco. I pompieri, questa gente dice che era una stufa che funzionava benissimo, questa stufa a gas, perché hanno detto praticamente che sia morto anche per questa stufa a gas. Non si sa esattamente come sono andate le cose, di cosa, se è stato ucciso o se è morto per disgrazia, ecco. Comunque la fretta della Gestapo, dell'SS di togliere di mezzo anche i cadaveri, hanno fatto i funerali perché non potevano farli, ha partecipato una grande folla, ha ricevuto 40.000 telegrammi, era un giocatore celebre ed è una morte, diciamo, misteriosa, con alle spalle questa sua lotta contro il nazismo. Finte, dribbling, gol, coppe, scudetti. Ma oggi di Mattias Sindelar, campione morto per un'idea, resta nella memoria quello splendido saluto mancato verso quella tribuna dove già sventolavano le svastiche. Un gesto, sottolinea Nello Governato, che il calcio di oggi ha dimenticato troppo in fretta. Non c'è una coppa singola, non c'è nulla che ricordi questo giocatore, questo oppositore di una dittatura. Tutte le dittature, speriamo non ne venga più nessuno, sono state la parte del Novecento, è stata una cosa terribile, milioni di uomini sono morti in nome della libertà. Ecco, lui, anche lui, io penso, e penso che sia giusto credere che sia morto proprio in nome della libertà, in nome di qualcosa che ogni uomo sente dentro, ecco, e che non puoi, che prima o poi ritorna. Ecco, speriamo soltanto che i sacrifici di questa gente non siano stati fatti in vano. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Un grazie a Carmelo Lauricella e Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.